Cosa 24, i gialli della storia. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice: spara, spara. Ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Ed è in quel momento che Barbone dice: non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo. Il 28 maggio del 1980 a Milano un comando di terroristi uccide Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, 33 anni, sposato con due bambini piccoli. Quella che vi raccontiamo oggi su Radio 24 è la sua storia, ma è anche la storia di una morte annunciata, di un omicidio di cui tutti sapevano tutto e che forse si poteva evitare. Ma questa è anche la storia di un'assenza, l'assenza di un padre che sua figlia, Benedetta, non ha fatto in tempo a conoscere. La sua assenza, la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita. Ho un calco vuoto della sua esistenza e questo è sempre stato estremamente doloroso per me. Presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Mi sono trovata con un'eredità formidabile. Ma chi è Walter Tobagi? E perché viene ucciso barbaramente in quel maggio dell'80? Quali sono le sue origini? Arrivato alla soglia del terzo liceo, durante le vacanze estive, Walter Tobagi bussa alla porta del quotidiano socialista L'Avanti. Il capo cronista di allora è Ugo Intini. Un giorno di quell'estate il vice direttore dell'Avanti me lo portò e mi disse: questo è un ragazzo che vuol fare il giornalista, viene dalla Zanzara, il giornale del liceo Parini, che aveva avuto una vicenda giudiziaria perché si era occupato di sesso ed era stato incriminato per questo, orrore a sentirsi. E io lo ospitai all'Avanti tutta l'estate e lui cominciò a lavorare lì, molto bravo. L'Italia in quegli anni, siamo nei primi anni 70, e l'Italia del 68 di Piazza Fontana, poi della nascita del terrorismo. Il giovane cronista brucia le tappe. Dopo l'esperienza all'Avanti passa all'Avvenire e poi al Corriere d'Informazione. Poi nel 76 arriva al Corriere della Sera. Tobagi ha solo 29 anni. Proprio per il Corriere della Sera comincia a occuparsi degli episodi più clamorosi del terrorismo. E al lavoro di cronista Tobagi aggiunge l'impegno negli organi di rappresentanza dei giornalisti lombardi. Nell'autunno del 78 Massimo Fini, Walter Tobagi, Franco Abruzzo, tutti e tre di area socialista, conquistano la maggioranza nel direttivo del sindacato dei giornalisti, alleandosi con gli esponenti di destra. E Tobagi viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. L'interrogativo è: quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia? C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione? Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della verità come strumento che crea libertà. A me pare che ci sia un pericolo, tutto sommato, di dire è democratico il giornale che scrive le cose che mi piacciono. Mi pare che vada recuperato il senso di un'informazione di questo tipo. Intanto però l'escalation della lotta armata non dà tregua finché, come era inevitabile, a cadere per mano dei terroristi è proprio un sindacalista. È il 24 gennaio del 79 quando a Genova le Brigate Rosse uccidono Guido Rossa, un operaio dell'Italsider che ha denunciato un suo compagno di lavoro sorpreso a distribuire dei volantini dei terroristi in fabbrica. Poi cinque giorni dopo a Milano a cadere sotto i colpi dei terroristi di prima linea è il giudice Emilio Alessandrini. Così Walter Tobagi sul Corriere della Sera del 25 gennaio del 79 sulla morte di Guido Rossa. L'uccisione di Genova era prevista a tavolino. il povero Guido Rossa è diventato il capro espiatorio per i brigatisti che cercavano un personaggio da colpire. Se la sono presa con lui per lanciare un avvertimento, ricostruire un muro di omertà all'interno delle fabbriche. I brigatisti genovesi hanno fama di imprendibili. Con un'azione così spietata mirano a ribadire la loro supremazia anche all'interno delle Brigate Rosse. Ma quelli sono giorni terribili. 24 ore dopo la morte di Alessandrini, nel mirino dei terroristi c'è proprio lui, Walter Tobagi. Il 30 gennaio del 79 in una borsa viene trovata una scheda dettagliatissima che parla di lui. Da quel momento Tobagi è un uomo segnato che deve imparare a convivere con la paura, come racconta il collega Antonio Ferrari. Con Walter a volte abbiamo discusso del problema delle minacce e Walter era quello che ne aveva ricevute di più. Ma le poche volte che se ne parlava, Walter reagiva in una maniera molto, molto fredda, molto, molto professionale, direi. E dice, purtroppo, anche noi siamo in prima linea come tutti, come i poliziotti, come i magistrati. Un giornalista che firma sul giornale più o meno tutti i giorni, beh, è chiaro che può essere un obiettivo. Nonostante le minacce, Tobagi rifiuta la scorta e continua a fare il suo mestiere di cronista. Il 79 si chiude con un bilancio terribile. Le formazioni terroristiche hanno fatto 24 morti, due al mese, mentre gli attentati sono stati 659, quasi due al giorno. Il 1980 è ancora peggio. Ad aprire l'anno sono gli omicidi, tra gli altri, dei giudici Bachelet, Giacumbi, Minervini e Galli. Di fronte a questa escalation senza fine, lo Stato si organizza e tenta di reagire. È la notte del 28 marzo dell'80 quando a Genova i carabinieri fanno irruzione in un covo di brigatisti in via Fracchia. Quattro presunti brigatisti rossi sono stati uccisi a Genova in un conflitto a fuoco con i carabinieri. L'operazione poco dopo le 4 nella zona di Oregina. Un nucleo è entrato nell'appartamento ed ha sorpreso i quattro. I carabinieri hanno risposto al fuoco. I quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono deceduti. Il 20 aprile dell'80, in prima pagina il Corriere della Sera pubblica l'ultimo articolo di Walter Tobagi sul terrorismo. Non sono samurai invincibili, dice. Il tentativo di conquistare l'egemonia delle fabbriche è fallito. I terroristi risultano isolati dal grosso della classe operaia. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata. Sono emerse falle e debolezze. Dopo via Fracchia, Tobagi ha deciso di non occuparsi più di lotta armata. A preoccuparlo non è solo però il terrorismo. Da qualche tempo, infatti, il giornalista è in disaccordo con la linea editoriale del Corriere della Sera. E soprattutto a preoccuparlo è la nuova scalata ai vertici della proprietà del Corriere, come ricorda il suo collega Renzo Magosso. Combinammo circa 20 tra convegni e riunioni pubbliche in cui raccontavamo della scalata al Corriere della Sera da parte di un gruppo che certamente non ci convinceva, che era quello del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, e se anche non era ancora stata scoperta la loggia P2, sapevamo di Licio Gelli, anche da numerose interviste fatte anche al Corriere della Sera, sapevamo che esisteva questa loggia P2, eravamo seriamente preoccupati per la libertà di stampa e soprattutto per questa mani sul Corriere che certamente non andavano bene ai giornalisti. Tobagi vivo dava molto fastidio certamente a questo gruppo di potere perché era una spina nel fianco. Non perdeva occasione per raccontare che la libertà di stampa passava anche da una libertà di editoria che in quel momento stava per essere seriamente minacciata. Un giornalista scomodo dunque, uno spirito libero. Per Tobagi l'atmosfera dentro il Corriere della Sera si è fatta pesantissima. E la sera del 27 maggio, poche ore prima di morire, in un corridoio del Corriere della Sera, Tobagi si confida con un suo vecchio compagno, Vittorio Zucconi, anche lui in quel momento giornalista del Corriere. Due giorni prima che lui fosse ammazzato, io ero a Milano, al Corriere, lavoravo anch'io per il Corriere all'epoca, ci eravamo ritrovati nello stesso giornale. Però io stavo a Mosca, ero stato mandato a Mosca come corrispondente e ci eravamo incontrati in quello che al Corriere si chiama il corridoio dei passi perduti, ed eravamo lì a chiacchierare aspettando che il direttore Franco Di Bella ci chiamasse. E allora ci scambiamo due parole con Walter e gli dissi: caro Walter, guarda, sono proprio depresso, devo partire per quella schifezza di Mosca, tu non hai idea che porcheria sia Mosca. Era la Mosca del 1980, ancora di Brezhnev, socialismo reale, l'invasione dell'Afghanistan. E Walter mi guardò e disse: no, ti sbagli, non hai idea tu di che cosa sia Milano oggi e l'Italia. Martedì 27 maggio dell'80 è sera, al Circolo della Stampa c'è un dibattito sul terrorismo e informazione e anche Tobagi prende la parola. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Dopo il dibattito, Tobagi torna a casa accompagnato in auto dal suo collega Massimo Fini. Io sono l'ultima persona, a parte la moglie, che ha visto Tobagi prima di morire, perché lo accompagnai, ci eravamo trovati al Circolo della Stampa e siccome abitavamo vicini, poi io avevo la macchina, lui no, perché non amava guidare Tobagi, e lo accompagnai a casa. Mi ricordo che ci fermammo a parlare sotto casa sua, piovigginava, erano le 2:30 di notte circa, un'oretta. E lui mi disse che aveva abbandonato da un mese le inchieste sul terrorismo perché si sentiva in pericolo, insomma, si sentiva in pericolo. Mi ricordo che in quel momento pensai che eravamo abbastanza incoscienti a stare lì fermi in macchina sotto... Comunque mi venne l'istinto di guardare fuori, non lo feci per non spaventarlo e spaventarmi. E mi ricordo che poi se ne va e apre... Questa è l'ultima immagine, no? Lui che apre il portone. Una cosa che apprezzo molto è stato che mia madre non ci ha mai nascosto nulla, ci ha reso partecipi, ovviamente nella misura in cui era possibile, della situazione, e lei è sempre stata disponibile e felice di parlare di mio papà. Poi ovviamente al dolore ognuno reagisce a proprio modo e fa delle scelte diverse e si è molto soli anche quando si vive lo stesso lutto. Walter Tobagi ha solo 33 anni, cade colpito a morte in una pozzanghera di via Saladino a Milano. Sono le 11:10 di mercoledì 28 maggio. Il giorno stesso, fedeli al tragico rituale della lotta armata, gli assassini rivendicano l'omicidio. La firma è quella di una sigla nuova, conosciuta da pochi, la Brigata 28 marzo. A soli 10 giorni dall'omicidio di Walter Tobagi, gli inquirenti sono già sulla pista giusta. La magistratura ordina una serie di intercettazioni telefoniche. Tra gli indagati spicca il nome di Marco Barbone e della sua fidanzata, Caterina Rosenzweig. 8 luglio 1980. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro convoca Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale parla anche dell'omicidio Tobagi. Gli investigatori, dice, sono sulla pista giusta. Il 19 settembre dell'80 i carabinieri arrestano Marco Barbone in licenza dal servizio militare ad Albenga. Il giorno dopo il giovane chiede di poter incontrare il generale Dalla Chiesa. A Dalla Chiesa Barbone dice subito di voler collaborare. Nel giro di una notte Barbone confessa l'omicidio Tobagi e diventa a tutti gli effetti un pentito. Il 7 ottobre dell'80, grazie alla rivelazione di Barbone, i carabinieri arrestano tutti i componenti della Brigata 28 marzo. Mario Marano, l'altro esecutore materiale del delitto Tobagi, e poi Paolo Morandini, Daniele Laus, Manfredi De Stefano, Francesco Giordano. Così Armando Spataro, all'epoca sostituto procuratore nel Tribunale di Milano. Sul piano delle dichiarazioni Barbone è apparso per la sua precisione assolutamente mostruoso, di una serietà encomiabile, ed è una persona comunque che per quanto riguarda la lotta al terrorismo è stata di un'importanza che io reputo non inferiore a quella di Peci. Con l'arresto di Marco Barbone e degli altri componenti della 28 marzo sembra tutto chiarito, invece non è così. e sul caso Tobagi si aprono molti interrogativi. Gli investigatori infatti sapevano addirittura i nomi di chi stava progettando il suo omicidio. Il primo a fare questa rivelazione sconcertante nell'83 è Bettino Craxi, all'epoca presidente del Consiglio. Così il giornalista Ugo Intini, il procuratore Armando Spataro. Craxi era presidente del Consiglio in quel momento. Mi chiamò e mi dette un foglio di carta, un semplice foglio, senza intestazione, che era un'informativa dei carabinieri, in cui si diceva che Tobagi sarebbe stato colpito nei dintorni di Via Solari, dove in effetti fu colpito, dove lui abitava, dagli stessi che avevano preparato un progetto di sequestro nei suoi confronti, poi fallito. Era una notizia straordinaria, sconvolgente. I carabinieri non si trovano di fronte, come qualcuno strumentalmente affermò, Craxi all'epoca e magari qualcun altro oggi, ad una notizia del tipo la brigata 28 marzo o Marco Barbone sta per o progetta di uccidere Tobagi. Assolutamente no. Ebbero una fonte confidenziale relativa a un progetto a loro già noto, risalente all'inizio del 79, poi convalidato da altro rinvenimento di materiale, riguardante un progetto, dunque, quello dei reparti comunisti d'attacco, ormai morto e sepolto, perché morto e sepolto era il gruppo che lo aveva curato, i reparti comunisti d'attacco. Quindi non c'era più attualità in quella notizia. Nel tempo nuove testimonianze hanno chiarito meglio il retroscena di quell'incredibile vicenda. Tutto ha inizio nel dicembre del 79, 6 mesi prima dell'omicidio di Tobagi. I carabinieri di Milano sono riusciti a stabilire un contatto con un terrorista di sinistra, Rocco Ricciardi. A tenere questo contatto con il brigatista è un sottufficiale dell'arma dei carabinieri. Nome in codice di questo sottufficiale: Ciondolo. E lui a raccogliere le confidenze del cosiddetto postino, il nome di copertura di Ricciardi, la sua fonte. Questa informativa arriva anche al capo dell'antiterrorismo, Roberto Arlati. Ciondolo redige una relazione di servizio datata 13 dicembre 1979, in cui fa, sulla base delle informazioni di Rocco Ricciardi, dice: c'è in preparazione qualcosa di grave nei confronti di Tizio, Caio, e in questo caso Caio era Walter Tobagi. Ma ascoltiamo Renzo Magosso, autore di un libro sul caso Tobagi, su quale è stato il percorso di questa relazione. Ciondolo a quel punto lì non ha scelta, deve andare da Umberto Bonaventura, che allora è capitano e che è rimasto al nucleo antiterrorismo, e gli dice: capitano, io ho nomi, cognomi, indirizzi, fotografie di questi personaggi. E il capitano Bonaventura dice: guarda, i nomi li hai già fatti, benissimo, foglietto lo metti in tasca. Se vuoi fai un'informativa, non firmarla perché non firmiamo niente, in cui dici che, come mi hai detto, cioè che in via Solari vogliono fare questo attentato e vogliono ammazzare Walter Tobagi. Ciondolo protesta per 4-5 mesi perché nessuno avvisa Walter Tobagi di questa cosa e lui dice: lo vogliono ammazzare. Quando l'ha ammazzato Walter Tobagi, come per miracolo, ci sono una serie di richieste di intercettazioni telefoniche, ma non 30, 40, 50, a 7 persone, bingo, proprio quelli che arresteranno 3 mesi dopo. Questa relazione redatta dal sottufficiale Ciondolo rispunta nel 2005. Sono 2 pagine in cui, riportando le rivelazioni della fonte Il Postino, si fa chiaramente il nome di Tobagi. Riassumiamo il contenuto in questa informativa. A pagina 1 si legge: Il Postino ritiene che vi sia in programma un attentato o un rapimento di Walter Tobagi. A pagina 2 si indica la zona in cui il gruppo sta operando: Piazza Napoli, via Amendola, via Solari. È l'area dove abitava Tobagi. Più volte nell'informativa si legge: il gruppo sta operando. Dunque, un tempo presente, senza ulteriori specifiche. Poi però c'è scritto testualmente: il Tobagi è un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti. E qui forse sta l'origine del tragico equivoco. Quella definizione di Tobagi come vecchio obiettivo dell'FCC può avere infatti indotto a credere che fosse un progetto criminoso ormai abbandonato. Anche perché il capo delle formazioni, Corrado Alunni, era stato arrestato a Milano il 13 settembre del 78. Dunque, un equivoco, un tragico equivoco potrebbe aver impedito alle forze dello Stato di salvare Tobagi. Ma in questa vicenda c'è ancora un ultimo atto. È il processo contro gli uomini della Brigata 28 marzo che si apre a Milano il 1 marzo dell'83. La figura è senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo, per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter. Al generale della Chiesa comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso. Ma neppure le confessioni degli assassini riescono a fare piena luce su questo delitto. Proprio durante il processo si parla del volantino di rivendicazione dell'omicidio, un volantino troppo preciso, troppo dettagliato sui meccanismi interni al Corriere della Sera per poter essere stato scritto da una banda di terroristi così giovani. Questo è il ricordo di Bettino Craxi nelle ore immediatamente successive alla morte di Tobagi, quando già spuntavano i primi sospetti. Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini. Noi abbiamo fatto indagini, intercettazioni telefoniche a carico di giornalisti esponenti del mondo sindacale, violenti, tra virgolette, avversari nel mondo sindacale di Tobagi. Sono state vagliate anche quelle ipotesi e si sono rivelate infondate. Quello del volantino, dunque, così preciso e dettagliato, è un mistero che resterà sempre senza risposta. Per l'omicidio di Walter Tobagi, Marco Barbone ha scontato poco più di 2 anni di prigione. Questo del resto prevedeva la legge sui pentiti, che è entrata in vigore nel maggio dell'82, una legge che d'altra parte ha contribuito naturalmente moltissimo alla caccia e alla distruzione delle Brigate Rosse. Ciononostante, le immagini della liberazione in aula di Marco Barbone, reo confesso, restano molto difficili da accettare. Per la figlia di Tobagi, Benedetta, come per sua madre, per suo fratello, naturalmente resta solo un dolore indicibile, che si rinnova nella richiesta di perdono da parte di uno degli assassini di Tobagi. Tra i membri della 28 marzo, il palo al momento dell'assassinio, Francesco Giordano, invece ha cercato con una reale intenzione di comunicare a mia madre, per cui c'è stato un rapporto epistolare con questo ex terrorista che ha scelto di restare in carcere, ha fatto una scelta molto forte. Lui ha chiesto di incontrarci e di venire a casa perché voleva incontrare anche i figli. E mia madre ha accettato. Io avevo 16 anni. In tutta sincerità devo dire che è stato un momento enormemente difficile, enormemente doloroso, perché comunque per lui era io immagino che sia una specie di purificazione andare a chiedere perdono. Quello che io ho vissuto è stato avvertire con incredibile intensità un dolore che mi ha accompagnato sempre, perché non è neanche questione di vendetta, o è proprio questione che la morte lascia un vuoto che inghiotte tutto. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.